camminate intanto, visto che lo spazio è piccolo, facendo attenzione a come camminate nello spazio. Nel senso che quando io insegnavo a scuola ai ragazzini, facevo tutto il lavoro per poter usufruire al meglio dello spazio nel quale si camminava. Ad esempio, prima li facevo camminare per tutta la palestra, poi solo in metà palestra, poi solo in un quarto di palestra, poi in un ottavo di palestra, finché alla fine dovevano imparare a camminare senza scontrarsi, attenti a sé e agli altri. Sì, tutti insieme. No. Tutti insieme. Tutti insieme. In modo da imparare a usare meglio dello spazio e orientarsi al meglio. Ok, adesso detto questo, per terra non c'è niente, quindi non guardate in giù. Guardate dritte. Cominciate mentre camminate a fare attenzione a come appoggiate il piede destro. Good question. Molto bella. Ci parli in inglese? Io non capisco il mio favore. Perché? Tu sai bene in inglese? No, però sempre li posso imparare. Roberta, dici prima in inglese e poi in italiano. Roberta, la prossima volta che andiamo fuori ci vediamo, ti parlo in inglese. Tu parli bene in inglese? Abbastanza, ma che brava. Sì, quando insegnavo in conservatorio dovevo fare la doppia lingua, dire l'istruzione in italiano e in inglese perché ci sono molti stranieri. Però adesso parliamo italiano e andiamo tranquilli. Ma tu hai fatto anche il conservatorio? We speak, come si dice, parliamo. No, ho insegnato Feldenkrais in conservatorio. Ah, no, pensavo qualche strumento. No, ho insegnato Feldenkrais in conservatorio e la cosa più strana è che sono gli stranieri, ovviamente, che capiscano meglio il Feldenkrais e che si iscrivevano ai corsi. Vabbè. Allora, state facendo attenzione, torniamo a voi, al piede destro, come lo appoggiate? Yes, of course. Allora, vi accorgerete che cominciate ad appoggiare il tallone e poi pian piano arrivate ad appoggiare il metatarso, in pratica la zona prima delle dita, fino ad arrivare ad appoggiare l'alluce, giusto? Sì. E continuate facendo attenzione a come in un certo senso il piede rulla dal tallone fino alle dita. Fateci sul serio attenzione, non pensate ad altre cose. Cioè lo dobbiamo fare rullare? No. No, non è che dovete, vi conviene perché camminate meglio. E di fatto, se voi fate attenzione, questo è il modo nel quale... Perché si appoggia, si va avanti col peso, si rulla finché alla fine si stacca il piede. Ok, adesso man mano che camminate fate attenzione in che parti passa il movimento quando appoggiate il piede. Concentratevi perché è molto efficace come lezione e potete, non dico farlo per strada perché certe cose che faremo se le fate per strada vi credono un po' pazze. Però a casa, in cortile, quando camminate in qualche parte, poi potete rifarvelo e vi aiuta molto per il camminare, vi rompe gli schemi abituali e vi fa riacquistare modi diversi. Quelle altre parti muovete. Il tallone. Sì, ma oltre il piede e il tallone, quali altri parti del corpo muovete? Anche il corpo? Sì. La gamba? La gamba? Il gluteo? Il gluteo? Avercelo il gluteo. I fianchi? La testa. Un po' le spalle. Le spalle. E le spalle? Le spalle e le braccia. Ok, allora adesso man mano che camminate, fatelo lentamente perché qualcuno già gira la testa, posso capirlo? Osservate cosa fa la spalla destra mentre camminate. Quando qualcuno ha bisogno di fermarsi, sedersi o riposarsi, lo faccia, eh? Io vado avanti. Ma sai che io non so, non mi sento tanto in equilibrio quando cammino, se metto l'attenzione. E certo, è per quello che ho detto, è per quello che ho detto, lo spazio è un po' piccolo, quindi già perderete, ve l'ho detto prima. Cosa fa la spalla destra? Ma basta sembra che vada leggermente su, leggermente. Leggermente spinta, ferma, questa è una lezione avanzata. Avanti indietro. Avanti indietro. Spiazzata, anche a me. Perché da un sacco di anni mi mette lì a camminare, ciao! Non sapete più cosa state facendo. No, è che le lezioni in piedi le faccio molto poco. Alzando perché... piedi, logicamente si alza anche leggermente la spalla, logicamente e viceversa, quando. Logicamente perché, ok. Logicamente perché. Leggermente. Perché sono molto. Cioè io non ho mica via tutti i punti. Io un po' vado via così invece. Ok, allora adesso facciamo questo. Attenzione, concentratevi. E quando appoggiate il piede, portate la spalla destra avanti. Vale a dire, quando siete col peso sul piede destro, la spalla destra va avanti, quindi c'è tutto il rullio dal tallone alle dita e mentre c'è questo appoggio dal tallone alle dita, portate la spalla destra avanti. Così? Fate attenzione, non è giusto o sbagliato, però fate attenzione perché vi imbroglio un po' col dire mettete l'attenzione solo sulla parte destra ed è fatto apposta per rompere un po'. Quindi quando voi siete col peso sul piede destro, non andare indietro, adesso è avanti, indietro. Ah, ok, ma fermati pure, siediti se hai bisogno. Quando voi siete con il peso che va dal tallone alle dita, quindi in inglese dicono standing, appoggiandosi, premendo il piede destro, la spalla destra va avanti. Nel passaggio del tallone al piede, scusate, nel passaggio del tallone alle dita, la spalla destra va avanti. Certo che non sono chilometri. Camminiamo al contrario, no? E non vi preoccupate di quanto fate il movimento, non importa. L'importante, come al solito, è lavorare sulla coordinazione neuromuscolare, cioè insegnare al nostro cervello e al nostro corpicino, che è plastico, nuovi modi di muoversi. È bellissimo vedere quanto siamo impediti e quanto siamo vulnerabili. Sono lezioni che ci insegnano che quando uno ha problemini con l'umiltà impara a capire che forse si può tranquillizzare. Quando ce l'ho indietro la gamba che butto avanti la spalla. Cioè tu non ti preoccupare, adesso fai quello che ti dico io. Non ti sto facendo fare quello che fai di solito. Io quando vado avanti. Come quando si balla si fa così, no? Allora, continuate a camminare. Adesso camminate e fate la stessa cosa, vediamo se vi agevola. Stessa identica cosa, quando portate il peso man mano sul piede destro, portate la spalla destra avanti e allungate il braccio destro avanti, come per prendere qualcosa. Destro solo. Io ho la simmetria incombente. Scusa, ma come si direbbe qui a questo esercizio qui a quelli che fanno scherma? È una lezione divertentissima con voi. Mi sembra di essere un soldatino, non riesco proprio. Attenzione, attenzione, che il braccio va avanti quando portate il peso sulla gamba destra, non quando fate l'affondo. In altre parole, la gamba destra è avanti appoggiata per permettere alla sinistra di staccarsi col piede, giusto? Sì. Ok. C'è qualcuno che sta correndo? Io. Una a caso. No, no. È per prendere il movimento, se no non ci riesco. Camminate normalmente o fermatevi, fate quello che vi... quale avete bisogno, o sedetevi. Io ho il passo da cane, sono velocissima. Come passo? Ah, perché la veloce il cane. Io ho delle amiche che sono indietro e hanno il cane dietro che le, davanti che le tira e corrono dietro il cane, magari appena io le ho fatto la lezione, per cui disperata dico per favore. Bene, camminate normalmente, osservate come camminate. E adesso mettiamo attenzione al movimento in un certo senso opposto, quindi quando staccate il piede destro, spostate la spalla destra indietro. Prima no, quando camminate e staccate il piede destro, quando lo staccate la spalla destra va indietro. Quando il piede è su, la spalla destra va indietro. Cavolo, questo non lo capisco. Devo correre da qualche no. Vi rendete conto quanto vi può essere utile se, vabbè, non per strada, perché sennò, ma in qualche parte camminare facendo questo vi aiuta? Anche se io faccio fare pochissime volte, magari sbagliando le lezioni, in piedi, perché le persone tendono a tornare nelle loro posture abituali, essendoci la gravità che le tira e subito rientrano. Però facendo spezzare il modo di camminare vi aiuta. Vabbè. Ripeto, quando il piede destro si stacca, la spalla destra va indietro. Quando piegate la gamba destra per staccare il piede, la spalla destra va indietro. Ok, perfetto, wow! Bene, adesso appoggiate il dorso della mano destra dietro la schiena, braccio piegato, dorso. Quando staccate il piede destro, il dorso della mano destra scivola lungo la cintura andando verso sinistra. Ripeto. Camminate e quando staccate il piede destro, la mano destra che è appoggiata dietro sulla cintura va verso sinistra, no, non verso il basso, verso sinistra, quindi è un modo diverso di portare indietro ancora una volta la spalla destra. Giusto. Prova, continuate a farlo, ve lo dico io se c'è qualcosa da cambiare o aggiungo io. Quando stacchi il piede, non in giù, Fausta, ma a sinistra. Sì, perfetto. Eccolo lì. E adesso, man mano che lo fai, evita di guardare per terra che non c'è niente e goditi l'ascolto della spalla destra, vedendo se la muovi o se stai muovendo appena appena la mano. Brava Roberta, mi ricordi di farvi respirare. Io ho un problema che adesso lo devo fare anche la risonanza. Ma la riesci a fare la risonanza? La mia parsagia. Che l'ho avuta 3 anni fa su questo piede, adesso la vengo questo. Ma riesci a fare la lezione camminando o ti fa male? Mi fa male, che cosa faccio? Cammino sempre sul male comunque, ecco, io ho un dolore qua. Tanto prendo anche l'onorifici, dopo vediamo perché non mi è guarito un fisiatra, spero che questa volta. Fai i controlli, comunque adesso, quando non ce la fai, fermati. Però adesso vedi cosa dice il medico, però potrebbe essere anche collegato a tutta la postura del modo di muoverti quando cammini. Sì, sì, ma ho altri problemi di schiena e perciò... Comunque sto parlando. Quando appoggio su questa tappa. Comunque fermati, se ti aumenta il dolore. Riposati stesso. Il dolore che lo sento. Sì, ma se ti aumenta, nel senso se diventa di più del solito? No, no, io riammino. Ah, ok. Camminate normalmente, osservate cosa fate con il piede, con la spalla destra. Attenzione solo a destra oggi. Piano piano. Ok, adesso camminate normalmente e quando camminate lasciate quando camminate osservate se la spalla destra fa qualche piccolo movimento anche verso l'alto o verso il basso. Non pensate più avanti e indietro, lasciate che se vi viene naturale venga, però adesso l'attenzione è messa sulla spalla destra per vedere se percepite qualche piccolo movimento verso l'alto o verso il basso. Camminare insieme, in un certo senso, di tre movimenti che ogni persona sviluppa più o meno. C'è chi sviluppa di più la rotazione, chi sviluppa di più la flessoestensione, chi sviluppa di più l'inclinazione laterale. È un insieme di questi tre movimenti e ognuno è una persona unica che si riconosce da lontano camminando che ha uno di questi sviluppato in modo diverso. Allora adesso, sia che percepiate o no, camminate muovendo la spalla destra in alto. Muovendo? La spalla destra in alto. Verso quando soprattutto. Capita o quando si appoggia? Quando capita, dopodiché vi dico cosa fare. Lasciando le braccia penzoloni morbide, finora le avete lasciate morbide. Ci sono persone che in altre lezioni muovono le spalle, le braccia, piegano i gomiti, anche se non serve. Il movimento parte dalla spalla. Ok, adesso continuate a farlo, è una cosa bellissima, quando appoggiate il piede destro, sollevate la spalla al soffitto. Quando appoggiamo avanti il piede destro. Quando appoggiate avanti il piede destro, la spalla destra va in su. Quando il peso sul piede destro, la spalla destra sale. Sulla davanti del piede, però, non sul tallone. Allora, il piede è in due posizioni. In uno pian piano rulla dal tallone alle dita e in una si stacca. Sì. Nella prima. Ok. Fatelo lentamente, proprio percependo questo peso del piede che si spinge fino a portare la spalla in alto. Attenzione, attenzione, credo qualcuno che se lo dimentica. Allora, quando il piede destro è appoggiato, la spalla sale al soffitto. È un movimento tutto unito che sentirete che parte dal piede e arriva fino a farvi sollevare la spalla al soffitto. Ma non è spontaneo? Sì, per te non è spontaneo. Cioè ti devi tutta tirare? Certo che te non devi tutta, già. Ok, continuate a farlo allungando il braccio in alto quando portate il peso sul piede destro. Allungando il braccio? In alto. Ah. Quando portate il peso? Yes. Possibilmente, visto che è un corso femminile, allungando il braccio con un po' di grazia. Tipo danza. Vabbè, immaginiamo tipo danza, o tipo prendere con calma un libro dallo scaffale, senza essere soldatini. Attenzione, attenzione a quello che fate. State premendo il piede destro quando sollevate il braccio destro in alto. Quindi, come diceva Luisa prima, sentirete che tutto il lato destro si muove, come si allunga, ok? Bene. Mi sembra di fare una confusione. Ma è quello che voglio. Ti preoccupare, è quello che voglio. Camminate normalmente. Così dopo pensi di essere non confusa invece. Camminate normalmente. Scioglietevi. Osservate se siete rimaste fluide e respiranti nel fare questo lavoro, se l'avete fatto in apnea. E ora facciamo il contrario, sbizzarriamoci ancora di più, confondiamoci ancora di più. Ora, quando staccate il piede destro, sollevate la spalla destra in alto. Quando staccate il piede destro, la spalla destra, no, non ancora la mano. Quando sollevate il piede destro, la spalla destra va in alto. Un attimo di equilibrio allora. Così. Comunque è pazzesco. Come noi siamo legati alle nostre abitudini. Appena uno ci toglie l'abitudine... Panico. Panico. Ansia. Sì, che poi invece quando la rompi l'abitudine, il cervello sta meglio, ce ne stiamo meglio. Lo so. È per quello che Feldenkrais non è molto gettonato. A parte che io non so cosa, com'è questo Feldenkrais. No, dove si può leggerlo? C'è un qualche libro? Sì, poi ti dico. Bene, adesso, ma guarda quelle due che parlano invece di... Io sposo un po' la gamba sinistra. Faccio apposta. Siediti se hai bisogno. Prenditi i cosi, fai la seggiolina. No, ma sto. Bene, adesso... Sto sempre, poi mi parte un po'. Ok. Adesso... E quando staccate il piede destro, muovete ancora la spalla destra in alto, allungando il braccio in alto. Quando? Come prima? No. Quando il piede destro è sollevato e la spalla destra è in alto, allungate il braccio in alto. Così. Piede, gamba destra piegata, piede staccato, braccio destro in alto. Ah, piede staccato addirittura? Yes. Ce la faccio un tempo. Però non faccio quello che posso. Fai uno, due, sì, certo. Il mio sicino, tribula. Le lavate si brusa. Dico solo. Vabbè, ma noi combattiamo. Ah, beh. Ok, camminate normalmente. Ed ora, quando fate il passo destro avanti, quando staccate il piede destro da terra, muovete la spalla destra in basso. Quando il piede destro si stacca, la spalla destra va in basso. Ma scusa, ma si fa tutta la torsione anche con la schiena? Tutto si muove. C'è torsione, senti che c'è la spina dorsale che ti... No? Sì. Che un genere cammina così e c'è un genere che cammina così. Infatti. Come mai? Perché tutto il corpo. Stai coinvolgendo tutto il corpo, la tensione è sì sul piede e la scapola, però ovviamente una parte trascina il tutto. Scusa, vieni a stare dritta. Sai qual è il discorso? Che quando, cioè, a me succede che devo proprio ricordare di respirare, perché quando faccio una cosa strana, cioè che appunto dico non c'è, cioè dentro di me tutto è strano, quindi non riesco a farlo, cioè c'è tutto un ragionamento, trattengo il respiro. Lo so. E quindi non avete se mi lo prendevo. Ma. È quello che succede sempre, per quello durante le lezioni io spesso vi dico osservate come respirate, perché appena uno si concentra troppo trattiene il respiro, guarda come vedi. Allora scusa, adesso... non è, scusa, volevo chiederti una cosa, non è meglio allora che tu, cioè che prima ci con, cioè che, un, che penso di mi concentro sul respiro e poi tu ci dai l'ordine di quello che dobbiamo fare. Beh, ma sai, questa è una cosa che pian piano potete imparare voi, altrimenti poi nella vita quotidiana io non sono sempre lì a dirvi respira, respira, respira, è una cosa che si impara pian piano, io ogni tanto riporto l'accento e poi voi ci lavorate. Bene, adesso portate la spalla destra in basso quando appoggiate il piede destro per terra. Mi viene più spontaneo. Meno difficile. Aspetta. Sì, di più. Ma hai mai pensato di farlo questo lavoro qui? Veramente in carcere. Grazie. Perché? Perché ti fa cambiare il... Certo. Sì. Cioè ti cambia gli schemi mentali che sono... Cioè è faticoso il fermo, so. Perché c'è proprio un'attivazione della volontà che... Però bisogna che noi non siamo riusciti a entrarci. Bisogna riuscire a entrarci. Solo la spalla. Ok, camminate normalmente. E osservate cosa fate col piede destro e con la spalla destra. Bene, adesso uniamo questi movimenti e intanto mettete l'attenzione al piede destro e osservate come potete fare per fare al piede come un movimento circolare. Provate, camminate e mettete l'attenzione sul piede, come può fare un movimento tutto circolare, nel senso che si stacca, si appoggia il tallone, si arriva alla punta, si stacca, si appoggia il tallone, si arriva alla punta lì. Accorgete che è come una specie di movimento circolare? Del piede? Sì. Io ho il piede piatto un po', però no, questo non c'entra. Cioè io devo far così perché sei un movimento circolare. Ok, fai così. Ok. Sai perché gli fa più male secondo me? Perché ho camminato poco? Perché secondo me facendo questo movimento mi soffermo, è più lento il passo e quindi sto più appoggiata, può essere? Sì, cioè, però dipende. Faccio un passo più normale, invece io camminando lo fai veloce per portare il peso di là. Ho una posizione antalgica e allora appoggio molto meno, infatti io la rotazione del piede non la faccio quando cammino. Probabilmente, capito? Sì. E allora non muovo tanto la gamba e non mi fa male, invece facendo, perché stavo pensando... Sei costretta a portare l'attenzione. Infatti ti conviene fare però portando l'attenzione, ti conviene farlo portare l'attenzione, magari fare solo tre passi ma portando l'attenzione, perché dopo ti aiuta quando cammini normalmente a camminare in modo diverso e migliore. Sì, però mi accento il dolore a me. Adesso sì, adesso sì, perché appoggio di più. Perché stai portando, ma non è detto che tu debba appoggiare di più a sinistra, sei tu che appoggi di più a sinistra. Perché portando l'attenzione a destra, porti il peso a destra quanto a sinistra. Sì, esatto. Invece quindi è un'abitudine tua. Cioè andando più lentamente diventa un'abitudine tua, proprio pensare che devi portare tanto il peso a sinistra per mettere l'attenzione a destra, invece puoi metterla uguale come tempo nel quale stai su una gamba sull'altra. Camminate normalmente ed ora, come dicevo, avete fatto attenzione all'idea del piede che descrive questo cerchio. Bene, adesso contemporaneamente cercate di far descrivere anche alla spalla destra un cerchio. Abbiamo fatto un movimento alto, avanti, basso, dietro, alto, eccetera. Quindi insieme tutte e due le parti descrivono un cerchio. Come vi viene? Adesso solo sempre la destra. Con la destra, metti l'attenzione alla destra, ma ovviamente se muovi la destra indirettamente si muove anche l'altra. Però l'attenzione va messa a destra. Ok, adesso specifico io. Prima osservate cosa fate con la spalla quando il piede è completamente appoggiato. A me viene da andare in giù quando c'è... Scende. E in su quando... Quando va su quando è appoggiato, vado avanti, quando va a portare la parte da me. Altre? A me viene... Stupendo. Allora adesso vi dico io cosa fare. A me viene da che va avanti. Se poggio solo l'attenzione sul destro, va giù, poi va su, poi va indietro e poi va giù. Cioè, ok, questo è il tuo modo. Perfetto, sì, quando il piede è appoggiato è giù, poi va avanti, poi va su e poi va indietro, poi va giù. Cioè se porto solo l'attenzione sul destro. Quindi giù, poi va avanti e poi indietro. Ok, adesso facciamo questo. Quando portate il peso sul piede destro, la spalla va su. È troppo facile. Anche a me veniva così. E poi descrivete il cerchio. Allora, e dopo facciamo il cerchio. Come? E dopo facciamo il cerchio. Sì. Cominciate quando il peso è sul piede destro, la spalla destra va in alto. Allora vieni il contrario proprio. Allora. Vi ricordate il movimento che facevamo prima quando il peso sul piede destro, il braccio destro sale in alto e tutta la parte destra si allunga. Quindi quando appoggio va in alto? Intanto fatelo così, ci sono 3000 variazioni, ogni persona ha una variazione sua, come abbiamo appena sentito. Non so, però Lella... La cosa migliore, aspetta, la cosa migliore è essere in grado di provarle tutte e poi ognuno al modo suo. Perché provarle tutte? Perché supponiamo che uno abbia il gesto, uno abbia un impedimento e non può fare la sua abituale, è in grado di camminare con le altre coordinazioni senza irrigidire e farsi del male al resto del corpo. Aspetta l'esempio che faccio molto spesso del musicista che quando suona il violino sta seduto in un determinato modo, che però se lo trasporta nella vita quotidiana, nel modo di star seduto quando prende un caffè o ha il computer e sta seduto esattamente nello stesso modo, si irrigidisce, è talmente sabito in questo movimento stereotipato che a lunga scadenza può portare dolori, rovinare proprio il nostro corpicino. Invece, l'essere in grado di passare da una cosa all'altra, anche le più astruse, le più strane, non è dannoso per il corpo, è mantenere in modo coatto quella cosa che diventa dannoso per il corpo. Dimmi. No, anche perché, Elena, per esempio, se io ho questa scoliosi destro-convessa, per cui ho tutta la parte destra più corta e la gamba destra più corta, cioè perché è tutta così, cioè in realtà a me serve conoscere altri modi di camminare, perché sicuramente io, il discorso che faceva lei, cioè lei asseconda il movimento antalgico che però, come un cane che si morde la coda, le procura più danno. E certo. Ecco, quindi io assecondo la mia schiena accorciata, ok? E quindi continuo, cioè tendo sempre di più dalla parte destra. Sì. E allora per allungarla, cioè per me sarebbe meglio alzare la spalla oppure come faccio io portarla in avanti? Non è che si tratta cosa è meglio per te, ricordatevi sempre, adesso aspettate, adesso provate a descrivere il cerchio muovendo verso il basso la spalla quando appoggiate il piede, il contrario. Okay. Adesso vi rispondo. Allora, sapete che Feldenkrais si basa sul principio del judo, vale a dire assecondare l'avversario per poi portarlo a sé e batterlo a terra. Allora, l'idea di Feldenkrais non è contrapporsi alle vostre abitudini, perché oltretutto avere delle abitudini va bene, perché uno non può pensare per strada per tutta la vita come sta muovendo la di testa. Allora, il problema è rendersi conto di quello che si fa. Infatti Feldenkrais dice, quando sai quello che fai, puoi fare quello che vuoi. Allora, punto primo, rendersi conto di quello che si fa. Poi, una volta che è ben chiara la propria abitudine, la propria funzione, il proprio modo di muoversi, si può sperimentare in modi diversi, ma giocando, provando, non costringendosi, non con la coazione, in un certo senso divertendosi, esplorando come bambini. Avete visto bambini piccoli che per imparare un movimento lo fanno anche 100 volte, ma non è che lo fanno costringendosi, provano, studiano, peso di qua, peso di là, su, giù, si girano. Lo stesso noi, è quello che vi serve, se no non serve a niente. Anche perché continuate a fare il giro, con la spalla. Ok, adesso provate a sempre camminare in questo modo e quando appoggiate il piede destro descrivete il giro verso l'alto, quindi appoggiate il piede destro e come prima la spalla va verso l'alto, ma in senso opposto a quello che avete fatto prima. Se qualcuna non riesce a descrivere il giro andando, appoggiando il piede, muovendo la spalla verso l'alto contemporaneamente, andando indietro, che probabilmente è il senso opposto di prima, provate a farlo camminando indietro, all'inizio vi può agevolare. Sempre più difficile. Cioè quando metto il peso avanti, la spalla in su. Adesso vi ho chiesto di, quando appoggiate il piede destro, sì, e la spalla destra va in alto, il giro è indietro. Probabilmente prima lo facevi avanti, non l'avevo specificato, ma probabilmente veniva avanti. Non l'avevo specificato, è infatti volutamente non l'ho specificato per lasciarvi liberi. Però la maggior parte l'ho fatto avanti, perché è quello che viene più. Allora adesso potete farlo camminando avanti. Spesso le persone fanno fatica a pensare che possono fare il giro indietro mentre portano il piede avanti, e allora provate a farlo camminando indietro. Dopodiché provate a farlo camminando avanti, una volta che vi è chiaro. Bene, farlo indietro. Vedi, cioè siamo tutti diversi, e questa è la bellezza. E osservate come passa il movimento nella schiena. Vuoi sedere, figlio? Ma scusa, stare in piedi che è male? No, siediti qua. No, no, non siediti qua. Grazie. Ah, signore. Come dura a convincere le persone? Resistete, soffrite. Allora, siccome prima si parlava di musica, io avverto che dalle 6 alle 7 al conservatorio, tutti i martedì, si possono ascoltare gli studenti che daranno gli esami. È vero, che bellissimo. Sì, non potuto andare perché insegno, ma andate perché è bellissimo. Sì. Tutti i martedì? Anche. Tutti i martedì, anche giovedì certe volte, ma i martedì sicuri. Allora, oggi per esempio c'è dalle 6 alle 7. Allora, chiesa di Santa Anastasia, cancello sulla sinistra, si vede dentro la porta vetri, si è nell'auditorio, si siede e si ascolta. Che bello, è bellissimo. Ma fanno una sola di anni? No, loro fanno le prove adesso, le prove come si sta sul palcoscenico, come ci si inchina, infatti i poverini sono rigidi, duri, perché sono giovani, sono carini da vedere. Sai che anche coreani. Coreani cantano in una maniera favolosa. Ah sì, vi ho fatto lezione al Ferrello. Che cosa? Perché io ho insegnato Feldenkrais in conservatorio. Davvero? E lui era venuto poche e dormiva perché era stanchissimo. E veniva le lezioni di Feldenkrais in conservatorio. Sì, sì. Certo, perché sono tutti assumono tutte delle posizioni. Per quello si fa. Per quello si fa in conservatorio, solo che dopo dipende dal direttore di fare bene il caso conservatorio. Bene, camminate normalmente. Personaggio. Beh, dovevate essere una classe super, voglio dire. Io no. Siete trovati tutti? Loro. Ci siete trovati? C'erano dei geni. Sì? Io no. Io sono assolutamente meglio. Mediocre. Con Lorenzo Santini. Con i voti. Cioè, state osservando come vengono o state parlando a fatti vostri? Non vuol dire. State camminando o pensando ai fatti vostri? No. Ha detto di camminare normalmente. Io anche. Grazie. Grazie Angela per l'organizzazione. Com'è che si fa? Non mi ricordo io. E camminate indietro. Tiri su la spalla. Camminate indietro. Siete un po' indisciplinate, eh? camminate indietro e osservate come camminate indietro. Perché vai avanti? Perché ti fa male? Mi viene la testa. Ah, ok. No, fermati allora. Vieni su dietro un po'. Non mi basta che mi appoggio. No, evitate. Cioè, quando siamo stese siamo brave. Cioè, ma è così, quando si fa lavorare cioè, seduti o in piedi, le persone tendono a guardarsi e comunicare. È dell'essere umano. È incredibile. Ecco perché quando faccio le dimostrazioni, vi faccio sempre le lezioni sdraiate. Sì. Perché così ognuno no? Si ascolta, vede se stesso, non fa confronti, sì. Non, altrimenti... Ci guardiamo. Parliamo. Adesso, quando camminate, camminate sollevando una volta una spalla e una volta l'altra. Descrivendo, sì. Lo spiego meglio, descrivete tutto il cerchio con una spalla e con l'altra. Ma questo non è, scusami, passo descrivendo il cerchio indietro, descrivendo il cerchio avanti, sbizzarriteli, cioè come viene. Sì, ma però sapendo quello che fate. Come viene, ma sapendo quello che fate. Nel senso che se io dico di cambiare, potete cambiare senza nessun problema. E osservate come muovete tutto il corpo. Se lo muovete anzitutto, muovete la colonna vertebrale, lo sterno. Le modelle come camminano? Le costole, dimentica il modello e il senso. Hai avuto un momento e potrei inventarlo camminando così. Se tu mi dici gli uomini di colore che sono una meraviglia, ti dico immaginati in questa lezione. Ma se tu mi dici il modello e lascia perdere perché è un modo tutto innaturale. Innaturale, sì. Allora, attenzione a quello che fate con tutto il corpo. Ora, cosa fa la spalla? Cosa fa il torace? Lo sterno? Le costole? Il bacino? E poi gambe e piedi. E poi, come tenete il collo e la testa? State irrigidendo il collo o tenendo morbido? Non è necessario irrigidirlo per fare queste cose. Allora, se lo tenete rigido, muovete in modo che non sia rigido. E respirate. E osservate come tutto quanto passa nel torace, nella schiena, nel bacino, come se fosse gelatina, come se fosse dei pupazzi, ma non di quelli rigidi, di quelli di stoppa. Il vitamento totale. Sto per prendere i pantaloni, per tanto mi sto. Ma vedi che sta e adesso camminate normalmente. Potete guardare avanti, respirare e osservare come portate il peso sul piede destro, come passa il movimento in tutta la schiena. E provate a camminare all'indietro. Vi ricordate che la cosa bella è che finite le lezioni, quando si cammina, l'ideale sarebbe i primi passi farli all'indietro, così non si torna subito nella vostra abitudine. Anche quando lavoriamo a terra, vi alzate, camminate. Se camminate indietro, non essendo abituate tutti i giorni, almeno io, a camminare all'indietro, non tornate nelle vostre abitudini. E quindi mantenete per un po' più tempo. Ma scusa, ma allora quel passo lì, come ci hai insegnato, ci fa oscillare da una gamba all'altra? No, no, cioè, e poi non è. Il peso da una parte e dall'altra in continuazione? Beh, sempre. Beh, quando cammini porti il peso su un piede e sull'altro in continuazione. Ora, la lezione di oggi mette l'attenzione sulle spalle, poi in altre lezioni si mettono l'attenzione in altre parti. Non è il modo giusto di camminare. Vi ho solo rotto gli schemi delle vostre abitudini di camminare, come diceva Angela, che era confusa e diceva io non so quello che faccio. Sì, sì, allora ok. L'obiettivo è questo, perché ognuno ha un modo suo e non puoi costringere le persone come soldatini a essere tutte uguali. Ok. Ognuno ha la propria storia corporea che è dovuta anche a traumi, abitudini, sport fatti, quindi personalità, sì, vedete, la personalità, cioè la cosa corporea è la manifestazione della vostra personalità, cioè tutto insieme. Bene, sdraiatevi un pochino prima di smettere, se volete il tappettino, ma sdraiatevi un pochettino così vi... Ci riposiamo.